and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago e una buona Befana a tutti. Sì, Befana. Cosa c'è Kappa? Sì. Ma cosa è successo? Niente, ho deciso, novità. Drago, ho deciso di essere scettico. Sulla Befana? Anche. E su cosa? Su tutto. Vabbè, sì, tutto. Una buttad. Sì, buttad. Vabbè, ma come mai lo scetticismo, se posso chiederti? Ma non vale nemmeno la pena risponderti. Ma dovrebbe essermi chiaro? Sì, chiaro. Vabbè, se continui così io vado avanti da solo. Sì, da solo. Vabbè, cari bambini all'ascolto, che cosa avete trovato stamattina nella calza? Sì, calza. Sì, nella calza. Ma quanta gente credi che ci sia oggi a quest'ora davanti alla radio? Adesso stiamo parlando io e te, Tito. Vabbè. Nemmeno le nostre mamme oggi si ricordano di accendere la radio su Radio 24 e ascoltarci. Ma dai, modernizzati, no? Ci sono sempre i podcast. Sì, podcast. E beh, meno male che ci sono. Sì, sempre se funzionano. Sì, dai, ogni tanto hanno qualche contrattempo, qualche intoppo, però funzionano. Sì. Sono tanti bambini che ci ascoltano poi dopo giorni, mesi. Sì, giorni. Certo, sì. I podcast, gli MP3, uno scarica oggi. Poi ascolta quando ha tempo, quando ha voglia. Poi magari a maggio, no? Ascoltano la puntata del 6 gennaio sulla Befana e dicono: ma qui sono diventati tutti scemi. Vabbè, anche senza il podcast, senza la Befana. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Chiedo e ritorno dopo la lezione, freddo, nebbia, entro nella mia camera vuota. Qualcuno mi fa vedere, guarda giù la finestra, era stata ricostruita dalle altre matricole costrette dagli anziani, era stata ricostruita in cortile con la luce accesa e il libro aperto. E questa è una cosa, tra virgolette, simpatica. Sa com'è simpatico riportarsi su con l'aiuto di qualche amico, un armadio, eccetera. L'inconfondibile ministro Tremonti, che ricorda la sua gioventù, l'università, poi i suoi episodi di nonnismo che ha subito, memorie, quindi oggi il tema della puntata sono le memorie bambine, memorie scolastiche, memorie accademiche, memorie proprio remote. Comunque vedi, anche Tremonti come me ricorda meglio i vecchi tempi di quanto ricordi il presente, anche lui. Ma non credo, cioè un ministro deve essere bello vigile, no? No, un ministro o vigile? Beh, un ministro vigile, si spera. Cioè, vigile, ministro che vigila. Vabbè, allora perché prima era schierato a favore della globalizzazione e adesso è no global? Vabbè, perché si è accorto di aver sbagliato. Drago, si dimentica. Ma non dire stupidaggini. Anche la finanziaria, lui la scrive tutta di getto, no? A mano. Ma no, ma come? Sì, la dà alla segretaria che la copia in bella sul computer. Perché lui non usa il computer. Ah no, beh, giusto. Ecco, sì. Poi lui va a dormire, si sveglia il giorno dopo che si è dimenticato tutto, capito? Allora ne scrive un'altra, ma completamente diversa, che è la famosa manovra bis. Ah, è quella la manovra bis di cui parlano sempre. Però il problema è quando il giorno dopo arriva con una terza finanziaria che va in direzione opposta alla seconda, anche lì tutta diversa. Quando gli dicono che due finanziarie in due giorni, Tremonti, due finanziarie in due giorni, e allora lui si infuria e batte i piedi. Solo i bambini pestano i piedi, strillano per rifiutare la realtà e dicono che è colpa della strega, agli adulti non è consentito. Succede qui? Ma signorina, qui si menano, Bambina turco, bambina Sant'Anché, anche le bambine litigano. Vabbè, come? La bambina turca e la bambina Sant'Anché non si possono soffrire. È una storica inimicizia. Una cosa impossibile. E poi oggi, sai, tutte e due vorrebbero impersonare la Befana, però di Befana ce n'è una sola. La bambina Bindi. Ma Tito, Kappa, anche tu, bambina Bindi. Vabbè, dai, facci l'ironia sulla bambina Bindi. Lo fanno tutti, non posso farlo io. Appunto, visto che lo fanno tutti, è meglio che tu non lo faccia, no? Perché? Poi fai brutta figura. figura. Sì, brutta ma figura. Ma sì, perché fare queste cose qui, prendersela con la bambina Bindi, sì, lo fanno già tutti, sì, non è il caso. Sì, la già tutti. Sì. Non possiamo stigmatizzare il comportamento del Premier se prende in giro la bambina Bindi e poi noi facciamo le stesse cose appena ci se ne presenta l'occasione. Sì, bambino solo perché Premier. Oggi è il giorno della Befana, a te viene in mente subito la bambina Bindi. Sì, a me era venuta in mente Bindi, appunto, la bambina Turco, non, forse per il naso, sì, e anche la bambina Santanchè per come si mette i capelli delle volte, sembra un po' una Befana, però in questo caso la bambina Bindi proprio non c'entra niente. K? Dove sei, K? K? Sì, K. 4-3-2-1, go! Allegro K che la musica bambina continua a trionfare in tutti i negozi. Negozi? Ma quali negozi? I negozi di dischi. Sì, i negozi di dischi. Adesso sei scettico pure sui negozi di dischi. Ma perché tu no? Beh, chiaro che sono un po' in crisi, però. Sì, in crisi. Sì. Sono finiti, Drago. Ma non è vero. Sono estinti. Non è vero. È come il lupo Agrigentino. No, vabbè, Agrigentino, non lo sapevo. Però fino a che usciranno queste antologie natalizie di musica bambina, i negozi di dischi sono salvi almeno a Natale. Sì, salvi. Ma sì, ma guarda che in poco meno di 2 settimane sono già state vendute 30.000 copie di un'antologia di canti natalizi per bambini che si intitola Caro Papà Natale. Sì, non si chiama bambini. Caro Babbo Natale, forse perché non posso ormai usare la parola. Natale è bello che dimenticato, lascia stare quel disco lì, non se lo compra più nessuno. Quindi diventa uno dei chiodi dei negozi di dischi. I chiodi, che, sì, i famosi chiodi stanno lì e non si staccano dal muro. E tu dici quindi 30.000 erano e 30.000 rimangono. Sì, qua, forse però non è detto, sono, dai. 29.000, è che Caro Papà Natale comunque, capito, diventa una specie di must, un item da collezionista. Sì, item. Ci sono un sacco di artisti dell'antologia, sono tutti molto seguiti. Ma sì. I fan completisti faranno a pugni per accapararsi una copia originale. Ma ci sono, si sono quelli che vogliono avere tutto di un certo artista, no? Sì, fan completisti, sì. E quali sarebbero sti artisti seguitissimi dai fan completisti? Nomi grossi, I Pooh, Irene Grandi, Ron, Amedeo Minghi, Luca Jurman e tanti altri. Speriamo in tanti altri, perché sennò la lista. Vabbè, ma scusa, hanno cantato tutti gratis, l'hanno fatto per beneficenza. Una bella iniziativa, dai, non parlarne subito male così, poi cosa c'è? Se è per beneficenza, allora non è come dici tu, scusa. Cosa? È che questa antologia salva i negozi di dischi, perché in beneficenza. Ma cosa c'è? Quindi... beneficenza la fanno gli artisti, i cantanti, non i negozianti. I cantanti hanno partecipato gratis, non hanno preso nemmeno una lira, poi i negozianti venderanno il disco. Vabbè, allora visto che hanno cantato gratis per beneficenza, vuol dire che sono tutti bravi. Beh, scusa, c'è anche Luca Jurman, fai tu. Ah, sì, Luca Jurman. Drago, oggi è il giorno della Befana e tu mi tiri fuori Caro Papà Natale. Ma non è che stiamo andando completamente fuori tema e che... No, scusa, Tito tace, quindi vuol dire che non stiamo andando fuori tema. Tito tace perché dorme, dorme perché è stanco, c'ha l'hangover anche lui. Comunque, in effetti hai ragione, la Befana dov'è? Befana, oggi la Befana, poi Non c'è. Befana non c'è. Infatti anche la mia calza di nylon stamattina era vuota. Anche la mia, ho provato a annusarla, a vedere se qualcuno l'avesse indossata. Invece così. No. Niente. Non è passata, Drago. Forse la Befana non esiste. Sì, non esiste. Ma guarda Babbo Natale, scusa. Sembrava, poi alla fine. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Un programma di Cappa e Drago. La Valle Brembana. E mandate le vostre strenne a Chiedo Asilo at radio24.it. Na na na na na. Alla Valle Brembana è arrivata anche questa per mail. Certo.